oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E buongiorno Francesco, buongiorno. Sei spento? Sono spento? Sì. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Vai, parla adesso o mai più. Parlo. Eccoti, ah. Non sei più spento. Bene, non sono più spento. C'era un pulsantino malefico che non si era... che non si era... Adesso abbassiamo anche le cuffie, così meglio? Meglio. Bene, adesso ci siamo. Si capisce che non c'è Willy. Infatti la regia fa acqua da tutte le parti. Ci manca. Lo so, io come regista sono un po' così perché diciamo che non ho l'habitus quotidiano e quindi perdo qualche colpo, ma i nostri ascoltatori avranno pazienza. Dopo una settimana di pausa dove tu eri impegnato perché hai fatto gli esami. Esatto. E allora partiamo. Ho promosso tutti, rassicuro, ecco, che ho promosso tutti. Questa è una notiziona, nel senso che siamo molto contenti che hai promosso tutti, ma li hai promossi perché meritavano di essere promossi o perché è una tua politica, diciamo, di derivazione sessantottina? Ma tutte e due, però stavolta mi hanno sorpreso, erano più preparati. Erano più preparati, mi hanno sorpreso, quindi stavolta non ho dovuto tirar fuori la mia voglia di promuovere tutti. Ho capito, va bene, quindi insomma ce l'abbiamo fatta anche per meriti. Per meriti, stavolta sì. Va bene, senti, entriamo subito in merito all'argomento di oggi. Parto da una notizia che è quella che è uscita ieri sul tasso di disoccupazione record, vola al 13,6% nel trimestre, al 46% tra i giovani. Il tasso rilevato dall'Istat è il più alto dal 1977. E tanto è vero che questa mattina il manifesto titolava torna il 77, non come fanno di solito i giornali quando richiamano il 77 per quel che riguarda scontri di piazza, cose di questo tipo, ma appunto il manifesto ha giocato su questo fine calembour perché richiama il tasso di disoccupazione e quindi lo stavamo peggio di quegli anni. E la disoccupazione corre senza soste, nei primi tre mesi del 2014 ha registrato l'undicesimo trimestre consecutivo di crescita dal 2004, quindi è dal 2004 che avanza inesorabile questo tasso. Stiamo parlando di 46% tra i giovani, cioè una generazione dove il 50%, praticamente la metà, sono disoccupati. Partiamo da lì perché poi abbiamo uno spunto interessante che vi lascio ancora un po' in sospeso come sorpresa. E commentiamo questo dato intanto. Ma io francamente penso questo, forse vado controcorrente, però io il commento che farei è questo: se fosse vero e se fosse così grave come sembra, drammatico, tragico, nel meridione più del 60% dei giovani sono disoccupati, la mia domanda è: perché non succede niente? Sì, in effetti è una domanda che sorge abbastanza spontanea, è vero. E abbiamo anche, secondo te, ipotesi di risposte? Ma io da fine psicologo posso dare solo una spiegazione psicologica. E cioè la seguente: non necessariamente essere disoccupati o inoccupati vuol dire essere affamati o essere infelici. Non necessariamente essere disoccupati vuol dire produce ribellione, potrebbe produrre anche scoraggiamento, depressione, quindi io la vedrei su due versanti. Da una parte cercherei di capire se questo 45% di giovani o 60 e più nel meridione sono tutti uguali. Per me non sono tutti uguali, cioè ci sono quelli che, nonostante il fatto che sono disoccupati o inoccupati, restano felici e non muoiono di fame, perché c'è la famiglia che ci pensa, così eccetera. E poi c'è un'altra categoria di quelli che invece sono talmente messi male per il fatto di essere disoccupati che si deprimono, si scoraggiano e non hanno più la forza o l'energia di ribellarsi. Ecco, quindi c'è queste due tipologie dal punto di vista psicologico. Diciamo che però da qualsiasi lato la guardi è abbastanza inquietante. È abbastanza inquietante, diciamo, perché in definitiva, come dire, l'altro giorno ho letto un articolo che mi sembrava bellissimo di un sociologo, che adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse, che diceva, parlava della crisi e diceva: cerchiamo di non sprecarla. Ecco, per esempio, un modo per non sprecare una crisi è di costruirci qualcosa sopra, cioè di intervenire in qualche modo. Per esempio, un modo sarebbe questo: in tutte le epoche, quando c'è una crisi, quando c'è una situazione drammatica, così eccetera, i giovani in qualche modo intervengono. Non dico che debbano intervenire con la violenza di altre epoche, non dico che dobbiamo tornare chissà a bagni di sangue, però se ci fosse un minimo di reazione, diciamo, logica, collettiva a questa situazione, probabilmente qualcosa cambierebbe. Potrebbe essere anche una reazione creativa, potrebbe essere costruttiva, cioè non solo, perché noi conosciamo per gli anni 70 appunto la reazione distruttiva, in un qualche modo la banalizzo così, abbiate pazienza, però forse oggi, visto che non c'è lo spirito, nell'enfasi, né le prospettive verso il futuro, perché negli anni 70 c'era anche la speranza di cambiare il mondo e quindi di usare tutte le forme possibili per provarci. Oggi forse questa cosa è un po' latita, cosa dici? Sì, come spirito intendo, di fondante. Credo di sì, credo che sia proprio questo cortocircuito tra rabbia e impossibilità di esprimerla, ecco, per esempio, dove sono finiti gli indignati? Che fine ha fatto l'indignazione? Diciamo che ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, perché in Spagna, dove gli indignati sono stati un movimento serio, molto partecipato, che ha riempito piazze in maniera evidentemente esorbitante, oggi gli indignados con Podemos arrivano al Parlamento europeo a portare le loro istanze. Sì, hanno preso l'8%. Esatto, quindi in Italia diciamo che il movimento degli indignados è stato più un'emulazione, un sostegno, una solidarietà verso gli amici spagnoli, ma in realtà avevamo 4 tende in piazza nelle varie città. Non è che possiamo dire movimento che ha... non è stato il movimento, diciamo, dell'era Genova. Non ci siamo indignati a tanto. Di quantità, no? Di partecipazione. Sì, ecco. Sì, non ci siamo indignati tanto. E quindi forse da questo punto di vista bisognerebbe trovare qualche via per sbloccare questa situazione. Perché così la crisi è sprecata. Così la crisi in qualche modo determina più solo distruttività, anche nelle vite individuali, no? Mentre le situazioni di crisi hanno anche un risvolto di, appunto, di cambiamento del mondo, di ribaltamento dell'esistente, no? Di cui non si vede traccia, purtroppo. Allora, caro Francesco, prima di entrare nel merito, intanto ricordiamo i numeri per contattarci: il 333 180 94 94 per i vostri sms o messaggi WhatsApp, 051 346 458 per intervenire in diretta. Cosa chiediamo ai nostri ascoltatori? Di parlarci, alle nostre ascoltatrici, di parlarci delle loro esperienze, o di disoccupati, o di vicini a disoccupati, o di conoscenti. Insomma, come la stanno prendendo, se dal punto di vista appunto depressivo, come dicevi tu, del lasciarsi andare, oppure si stanno mettendo in moto in alcuni casi meccanismi di creatività che portano a non mandare vana questa crisi, come dicevamo. Intanto ti dico che la scaletta di oggi è tutta dedicata al progressive. Un po' mi sono fatta aiutare da Andrea Gozza per la scelta dei brani, però partiamo da oggi per poi andare a ritroso. E ieri sera c'era il concerto dei Calibro 35 al Bioparco nel Cavaticcio, siamo andati ad ascoltarli e quindi io adesso ti mando uno dei brani del loro ultimo lavoro, che si chiama Vendetta. A proposito di quello che dicevamo, Rientriamo in regia, rientriamo con Francesco Campione. Siamo partiti dai dati della disoccupazione, e però voglio arrivare anche a quello che vi annunciavo prima, ovvero parleremo oggi anche sulla base di un libro che è uscito. È uscito fresco fresco, mi è appena arrivato in mano, fa ancora profumo di inchiostro fresco. È di Francesco Campione, che è il nostro ospite, diciamo, titolare di questa trasmissione, e si intitola Non lavoro, e ovvero trasformare la disoccupazione in opportunità. Quindi il nostro ragionamento andrà proprio su questo, sul non far andare persa l'occasione, quello che può essere un'occasione nelle tante sfighe che porta la crisi, ma può portare anche occasioni. Andiamo a vedere quali potrebbero essere, perché magari uno non le vede. proprio non sono così evidenti. Non sono così evidenti. Ecco, una prima riflessione che vorrei sottoporre è questa. Si pensa solitamente che la disoccupazione o l'inoccupazione abbiano solo caratteristiche negative. E in realtà noi, seguendo col servizio Primo Maggio qui in città centinaia di persone che abbiamo seguito per aiutarle nella, psicologicamente nella, nella loro, sì, perché ricordiamo che percorso, l'associazione Rivivere appunto ha un filone tutto dedicato al Primo Maggio, si chiama, si chiama Servizio Primo Maggio, esatto. È l'aiuto psicologico gratuito alle persone che hanno perso il lavoro, che lo stanno per perdere, cioè, cioè ricordiamo che a Bologna ci sono anche queste cose, accidenti, ricordiamoci, ecco. E, nel, durante questi incontri, durante questo lavoro di cura per le persone che perdono il lavoro, che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, noi ci siamo imbattuti spesso in situazioni imbarazzanti di questo tipo. Io ho perso il lavoro e ne vorrei trovare un altro, ma in realtà vorrei anche dire una cosa di cui mi vergogno un po', e cioè che in fondo, di aver perso quel lavoro lì, sono contento. Quel lavoro, certo, lì. Perché, sì, come dire, la disoccupazione crea problemi, però ne può anche evitare se uno aveva un lavoro, come dire, alienante, un lavoro disumanizzante, se aveva un lavoro terribile, se aveva un lavoro che non gli piaceva, se aveva, certo, un lavoro negativo. Anzi, delle due può essere, diciamo, se uno prima si fosse sentito in colpa al pensiero di lasciare il lavoro perché non era, era degradante oppure frustrante, eccetera, la crisi può fornire un alibi buono, possiamo dirla così? Per dire, vabbè, per la crisi ho perso il lavoro, e intanto uno invece emerge ed è contento per il risultato. Certo, peccato che ci sono anche i risvolti negativi della disoccupazione, no? Quindi bisognerebbe, come dire, che a perdere il lavoro fossero quelli che in realtà non hanno poi certe conseguenze, le conseguenze negative. In questo caso non si potrebbe più parlare di disoccupazione, ma si parlerebbe di ozio creativo, di ozio filosofico, si parlerebbe di liberazione dal lavoro, come qualcuno ha detto. Ecco, allora, in definitiva, se è così, la prima opportunità che la disoccupazione presenta riguarda quelle persone che avevano un lavoro che non era il loro lavoro, che non era un lavoro umanizzante, ma era un lavoro disumanizzante. Quindi la prima opportunità che la disoccupazione offre è di trovare un lavoro migliore di quello di prima. Un lavoro umanizzante, piuttosto più umanizzante di quello che si aveva prima. Questa è la prima opportunità. Poi ci sono tante altre opportunità. Comunque questa, a mio modo di vedere, è la principale delle opportunità che la disoccupazione offre. Cioè quella di riequilibrare il lavoro, il rapporto tra il lavoro e la vita, per cui sembra oggi, se si guardano le cose dal punto di vista della mancanza del lavoro, sembra che qualunque lavoro sia uguale a qualunque altro lavoro. Sembra che il problema sia, che il solo problema delle persone sia di lavorare purché sia. Se fosse così, lavorare avrebbe come scopo soltanto, questo è vero, quando il lavoro ha come scopo soltanto la sopravvivenza. Ora, se il lavoro ha come scopo soltanto la sopravvivenza, siamo in un'era, come dire, geologica del passato. Cioè, se si lavora solo per sopravvivere, ci sono tante altre funzioni del lavoro. Quindi la disoccupazione in qualche modo andrebbe intesa come un passaggio da un lavoro a un lavoro migliore. In questo senso è un'opportunità. No, infatti, tra l'altro volevo leggerti il messaggio che ci arriva da Andrea, su cui io ho qualcosa da dire, nel senso, da Venezia a Taranto passando da Roma, PD, prendano i beni materiali e morali pubblici, pregiudicati, civici, altro che familismo amorale, la battaglia non è finita, nessuno sta facendo il familismo amorale, Andrea, in questo caso, certo è che mi viene da dire queste cose le vediamo, le riconosciamo, ne parliamo tutti i giorni, ma sono ancora cose a macchia di leopardo, nel senso, sì, è vero che ci sono le proteste, le ribellioni per alcune situazioni limite, come quelle citate da Andrea. Il problema è che non vedo, non mi sembra che si possa vedere, un discorso di comunità proprio sulla ribellione, come poteva essere quello che abbiamo visto negli anni, fine anni 60, primi anni 70, insomma, non siamo certo in quelle condizioni lì. Dopodiché può darsi che queste macchie di leopardo pian pianino si uniscano e creino un fronte compatto, ma per il momento io non ne vedo traccia. No, ma secondo me sai cosa c'è? Che questo tipo di interventi vanno intesi nel modo giusto. Cioè, secondo me, chi effettivamente fa qualcosa, quei pochi che effettivamente fanno qualcosa, quando si dice che non si fa niente, si sentono assolutamente. Un pochino. Tra l'altro questa radio è tacciabile, cioè, di tutto tranne che di non seguire. No, però voglio dire che può dare che noi tutte le volte che diciamo non succede niente dovremmo dire salvo qualche lodevole eccezione. Certo. Diciamolo, ci sono anche quelli, ci sono, non è che non esistono, però il problema è la tendenza, il problema è dove si va, il problema è che rispetto alla gravità del problema quello che si riesce a fare è una cosa da pochi, elitaria, e per questo non incide alla fine. Sì, e poi non convergono questo tipo di là, cioè ognuno nel suo specifico sta facendo le sue ribellioni, nessuno lo mette in dubbio assolutamente, però no, forse c'è un progetto. Certo, forse c'è il problema di appunto di costruire sopra quelle cose piccole, anche piccole, meritevoli, fatte di una coraggio estremo, così eccetera, ci sarebbe da costruire, marcando però la difficoltà di farlo, perché appunto c'è, forse, io non vorrei, come dire, lanciare l'idea del complotto, così c'è, ma forse la nostra, questa cultura nella quale viviamo è forte anche per questo, perché di fronte alle situazioni di crisi è più in grado di farci scoraggiare piuttosto che di farci vedere alternative, il che probabilmente è utile al mantenimento dell'esistente, perché se le cose non cambiano neanche quando la metà dei giovani sono disoccupati, evidentemente questo mondo qui ha delle resistenze al cambiamento che sono terribili. Sì, devo dire che è cambiato molto la figura del nemico, passami il termine, dell'avversario, ecco. Nel senso che se 30 anni fa, 25 anni fa, l'avversario era chiaro, era chi legiferava, sapevi dove erano, era quel gruppo di persone lì, tu facevi una serie di manifestazioni e si potevano direzionare una serie di decisioni, ammorbidire quantomeno attraverso l'intervento di piazza. Oggi mi sembra che l'avversario sia molto più spalmato, è molto più etereo, è molto più compaio non compaio, e quindi è anche difficile uniformare l'obiettivo, perché ti sfugge, è più sfuggente. Certo, certo, questo è in più, secondo me. Psicologicamente un avversario sfuggente, certo, puoi insegnare tu, non funziona. No, è in più, secondo me, questa impostazione, come dire, un pochino bellica della lotta, è un po' andata in crisi profonda. Cioè, nel senso che non è più possibile, dopo una tremenda sconfitta come quella del secolo scorso, non è più possibile impostare le cose solo in termini di lotta. Bisogna impostare le cose anche in termini di convinzione. Cioè, per esempio, c'è un intero mondo di persone che lavorano, che hanno un reddito, che possono essere i migliori alleati di quelli che non lavorano, perché hanno, anche se hanno la sicurezza lavorativa, però hanno una sensibilità di un certo tipo, e non solo, ma si sentono parte dello stesso mondo. Per esempio, se il mondo si distrugge perché c'è un certo modo di produrre, un certo modo di lavorare e così via, si distrugge per tutti, sia per quelli che lo lavorano che per quelli che lavorano. Allora, l'idea novecentesca della lotta e della contrapposizione, del cercare l'avversario e il nemico, è un'idea che in definitiva Quando continuiamo a usarla per cambiare le cose, probabilmente ci votiamo al fallimento. Devo dire che proprio tra le varie aspetti da analizzare ci arrivano, e suppongo che li avrai incontrati anche tu questi aspetti, poi al limite me lo dici, messaggi di Andrea ci danno un ulteriore spunto, che non è anche questo, non è la totalità, è così, però è un pezzetto che va assolutamente tenuto presente, ovvero il sistema scuola che ha eliminato l'educazione civica a partire dalla riforma Berlinguer di 20 anni fa, perché è ritenuta pseudo fascista. Oggi siamo alla generazione dei tanto pagano i nonni, e giustamente poi dice il senso civico educa la cittadinanza, da lì poi nasce il resto. In effetti questo l'abbiamo visto sotto vari aspetti delle nostre puntate, il senso di collettività è proprio quello che manca, se non si riparte dalla ricostruzione di quello, e quindi ci sta l'educazione civica perché ti educa alla collettività e al rispetto reciproco. Come si fa a trovare un obiettivo comune? No, anche qui penso che si tratti di categorie sorpassate, purtroppo. Perché la categoria della cittadinanza, essere cittadini, no, è la categoria della Rivoluzione Francese, no? Purtroppo siamo andati oltre, non è più possibile fondare la comunità sulla comune cittadinanza, perché la cittadinanza, il concetto, la sfera della cittadinanza, in definitiva, è la sfera anche del conflitto degli interessi. Non ci crede più nessuno che noi bolognesi siamo tutti della stessa città. Non è vero, perché abbiamo interessi completamente diversi, in conflitto tra di loro. Allora il problema fondamentale non è, come appunto nella Rivoluzione Francese, la cittadinanza si costituisce a partire da che cosa? A partire da égalité, fraternité, égalité e fraternité. Ma dove sono égalité e fraternité? Dove sono finiti? Ci sono in una città uguaglianza e fraternità? C'è differenza e ostilità. Allora, il problema è che la cittadinanza non si può costituire perché la base della cittadinanza non è andata in porto. L'uguaglianza non c'è, anzi il mondo di oggi, perché lo critichiamo? Lo critichiamo perché è sempre più diseguale. E c'è sempre più difficoltà di considerare fratello il diverso. Sempre più difficoltà, non sempre meno difficoltà. Per cui tutti i problemi diventano problemi che si affrontano in modo conflittuale, non in modo comunitario, perché in modo comunitario vuol dire in modo condiviso, non in modo conflittuale. Allora c'è qualcosa da modificare di profondo in questo. Bene Francesco, adesso andiamo in musica, poi spazio pubblicitario e torniamo con questa interessantissima discussione. Intanto ricordiamo i nostri numeri: 333 180 94 94 per i vostri messaggi WhatsApp o SMS, 051 34 64 58 per intervenire in diretta. E adesso, visto che abbiamo parlato di anni 70, andiamo negli anni 70, 1974, The Lamb Lies Down on Broadway, questi sono i Genesis, rimaniamo come promesso in ambito progressive. somehow it's lying there brings a stillness. Lasciati con i Genesis, rientriamo con i Genesis. E Francesco, tu prima parlavi di rivoluzione francese, io sono stata attenta, hai parlato di égalité e fraternité, me ne manca una. Che fine ha fatto la liberté? Ah, la liberté, la liberté, la liberté. Si potrebbe rispondere ullalà, la libertà. No, non l'ho dimenticato, l'ho fatta apposta, perché secondo me di libertà falsa ce n'è tanta, tantissima, troppa oggi. Tutte le analisi convergono nel dire che c'è, che l'unico di quei tre principi, valori della rivoluzione francese che ha avuto successo è la libertà, ma togliendo la compagnia con gli altri due valori, la libertà si svuota. Per sì, cui anzi, te la danno tutta perché tanto non ti danno niente. Cioè inizialmente sembra che ne hai a pacchi rispetto a prima, detta così l'impressione è così, però poi si rivela un po' un miraggio. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma siccome vivi in un mondo non egualitario e senza fraternità, non puoi fare niente. E quindi in realtà la libertà è uguale. Puoi fare tutto quello che vuoi, è una velleità. Ecco, torniamo a trasformare la disoccupazione in opportunità, perché io sono curiosa. Tu prima citavi alcuni esempi, diciamo, raccolti sul campo, si può dire così, sull'analisi, la persona che non era contenta del suo lavoro, che tutto sommato non è poi, magari si svergogna un po' a dirlo, però non è così dispiaciuto di essere disoccupato perché è un'opportunità. C'è solo questa di opportunità, oppure possiamo vedere altri, no, aspetti, direi altre sfere, anche per dare un senso, un discorso, un messaggio di speranza e di come prendere in mano questa crisi, non lasciarsi trasportare e travolgere e rivoltarla a nostro favore. Esattamente, e soprattutto non farsi ingannare come si fa spesso quando collude con il discorso per cui la cosa importante è trovare un lavoro, qualunque lavoro, e quindi prima o dopo ci si troverà nella stessa situazione, perché se non è un lavoro diverso, cioè se non è un lavoro umano, qualunque altro lavoro che tu trovi ti espone a perderlo di nuovo. Quindi non si risolve il problema. Allora le cose andrebbero dette in un altro modo, andrebbe detto la cosa in questo modo: non tanto che la disoccupazione va trasformata in un'opportunità, ma che la disoccupazione andrebbe trasformata in un lavoro umano. In un lavoro scritto tu, sì, qua, in un lavoro umano e o umanizzante. Ma cosa vuol dire? Che cos'è che umanizza la vita dell'uomo? La vita dell'uomo è umanizzata fondamentalmente, è resa umana da tre fenomeni fondamentali: l'amore, la festa e la creatività. La festa e la creatività. L'amore, la festa e la creatività. Senza amore, senza festa e senza creatività non c'è umanità. L'umanità si impoverisce, l'umanità non è tale. Allora, il lavoro che bisogna costruire a partire dalla disoccupazione, il lavoro umano, è un lavoro che consenta e non ostacoli l'amore, la festa e la creatività. Questo è il punto fondamentale, che è la, cioè come dire, sarebbe il modo per non sprecare le crisi ricorrenti della disoccupazione. In realtà cosa succede? Succede che tutte le volte che c'è una crisi di occupazione, guardiamo quella del 29, si risolve dopo alcuni anni di sofferenze atroci di masse di persone. E come si risolve? Si risolve con la piena occupazione, che si ottiene quando? La piena occupazione? Quando c'è uno stato di necessità, quando c'è la guerra. Il problema della piena occupazione, la piena occupazione dovrebbe essere l'obiettivo di tutta l'umanità, ma non come tale, come piena occupazione, perché se c'è piena occupazione e la maggior parte dei lavori sono lavori che ostacolano l'amore, la festa e la creatività, della piena occupazione non ce ne facciamo niente. La piena occupazione è negativa se il lavoro è alienante e ostacola amore, festa e creatività. Allora il problema è... Allora, scusa, chi fa lavori alienanti dovrebbero licenziarsi tutti, cioè a prescindere da... Il problema... Sì, ma sai perché non si licenziano? Non si licenziano perché c'è il ricatto della sopravvivenza. Se non ci fosse il ricatto della sopravvivenza, tanti si licenzierebbero. Ah, non c'è dubbio. Si licenzierebbero tanti, perché tanti vivono il lavoro come una negazione della vita. Non è che il lavoro di per sé è una cosa positiva. Il lavoro come attività umanizzante è positivo. Il lavoro come attività che costruisce un mondo nel quale sia possibile l'amore, la festa e la creatività è il lavoro positivo. E ci vuole il lavoro, perché la natura di per sé non consente amore, festa e creatività. In natura c'è competizione, in natura il forte si mangia il debole, quindi non è un mondo la natura in cui ci siano amore, festa e creatività. Ci vuole il lavoro per trasformare la natura in mondo, in un mondo in cui ci sia la realizzazione dell'umano. Quindi non è che il lavoro non è importante, ma quale lavoro? Allora, in teoria tutto questo funziona. In pratica, come lo possiamo applicare nel nostro piccolo? Perché sennò rimane una bella utopia. Utopia. Rimane a cui tendere, se vuoi, ma irraggiungibile. Rimane un'utopia. Certo, certo. Io, come dire, nel mio libro modestamente propongo un'alleanza per riuscire a ottenere questo risultato, no? L'alleanza tra tre figure fondamentali è un provvedimento economico. Le tre figure fondamentali sono gli imprenditori che producono ricchezza, i santi, cioè quelli che tutto quello che hanno lo danno agli altri e se ne fregano, perché il loro scopo è donare, e chi fa un lavoro di cura, cioè chi non è cinico e di fronte per esempio alla distruttività della disoccupazione si mobilita per dire dobbiamo fare in modo che quel poveraccio non si uccida. Perché ci vuole questa alleanza? Perché ci vuole chi produca la ricchezza, perché senza la ricchezza i santi e chi fa la cura restano senza lavoro. Ma come la producono la ricchezza da soli gli imprenditori? No, la producono come la producono, la producano la ricchezza, la producano pure, d'accordo? Poi però si devono alleare con i santi e con chi fa il lavoro di cura. Non si devono alleare solo tra di loro, tra i santi e chi fa il lavoro di cura, in modo tale da poter ottenere quel provvedimento che secondo me è il provvedimento fondamentale per uscire dalla trappola per cui dalla disoccupazione si può uscire solo con qualunque lavoro. E cioè, che cosa? Il provvedimento qual è? Il provvedimento è il reddito di cittadinanza. Il reddito, le persone vanno pagate, andrebbero pagate perché sono uomini, non perché lavorano. Prima di tutto perché si è uomini, si ha bisogno, altrimenti si cade nel ricatto della sopravvivenza e qualunque lavoro va meglio della disoccupazione perché bisogna sopravvivere. Quel ricatto lì non scatta se tutti indistintamente, tutti hanno un reddito umano, un reddito di cittadinanza, un minimo che consenta a tutti di sopravvivere. Al di là di questo, al di là della sopravvivenza, c'è il gioco del mercato, del... però la sopravvivenza andrebbe garantita a tutti. Per far questo è necessario che ci siano le risorse, quindi ci vogliono gli imprenditori, ma certi imprenditori, l'imprenditore alla Bill Gates che dice se il, cosa servirebbero i miei soldi se non facessi del bene, ci vogliono, perché altrimenti senza chi te le dà le risorse, però devono allearsi con quelli che predicano il dono gratuito, e con quelli che fanno il lavoro di cura, che gli dicono, senti, guarda che se non facciamo questo, la gente si distrugge, fra un po' non troverai più nessuno che lavora, perché saranno tutti depressi, eh? Allora, ci arriva un messaggio da Andrea che però secondo me è già stato superato dalle tue parole, ovviamente era relativo al primo pezzo del discorso che hai fatto, dopo sei andato oltre, comunque lo leggo lo stesso, poi mi dica Andrea se ho ragione oppure no. Scusate, ma il suo è un discorso liberista neocon, fa il lavoro che ti si addice, go big or go home, dove sta la socialità? Direi che non era... poteva essere, poteva inteso, sembrare, ma adesso poteva sembrare, ha ragione, con la conclusione sembrare. Del tuo discorso direi che non ha più adito questo dubbio. E poi ti leggo invece un messaggio che arriva da Manuela, che un po' si collega a quello che dicevamo nella prima parte, prima della pubblicità, ma anche con quello che hai detto adesso, e dice: credo che nella nostra società le persone si uniscono nella lotta se hanno una proprietà, tra virgolette la proprietà, in comune, o se si riconoscono in un'appartenenza comune. Quando una di queste due condizioni manca, è molto difficile creare un fronte comune. Lo scoramento deriva dal sentirsi soli e impotenti perché non coltiviamo più un impulso che ci obbliga nei confronti degli altri in difficoltà, esattamente quello che stavi dicendo ora, al di là che questo abbia qualcosa in comune con noi. Quindi direi che va proprio nella direzione... collega insomma le due parti, la prima parte del discorso e la seconda, o sbaglio? Sì, si potrebbe discutere sul problema se sia, come dire, insito poi, perché sembra che ci sia, come dire, una specie di obbligo in questo, che senza l'obbligo non ci si arriva. In realtà, secondo me, c'è anche un grande desiderio, più, c'è necessità più che obbligo, diciamo, sì, c'è un bisogno. Ma appunto io direi invece che c'è il bisogno, ma c'è anche il desiderio. Per esempio, il desiderio di, per esempio, la vita dell'uomo, se ci chiediamo, ha un senso? No? Possiamo cercarlo, questo senso, in vari modi, attraverso le fedi religiose, attraverso la filosofia, così eccetera. Però c'è una categoria di persone, le madri, i medici, gli psicologi, quelli che si occupano della cura degli altri, i quali non hanno bisogno di chiedersi che senso ha la loro vita, perché aiutare un altro ha senso, dà senso alla vita, anche se la tua vita non ha nessun senso, anche se tu non hai nessuna filosofia che ti giustifica, aiutare un altro ti giustifica, no? Allora, questo, la scoperta di questo fa sì che tu possa desiderare aiutare gli altri. Ecco perché dico l'alleanza tra gli... Per esempio, che succederebbe se quelli che hanno la ricchezza gli venisse il desiderio dei santi di donare gratis? Almeno una parte, come dire. Di donare gratis, tanto, senza fare conti. Non è nemmeno così utopico. Il mecenatismo è sempre esistito, soprattutto nel passato, e ha fatto grandi cose. No, ma non solo, ma se, per esempio il mecenatismo, la filantropia, il lavorare per gli altri, il dare qualcosa della propria ricchezza agli altri, eccetera. Senza una motivazione umana non si danno. Ci sono quelli che non lo fanno perché non hanno la motivazione umana alle spalle. Certo. Perché se c'è la motivazione umana, un po' lo fai. No. Bene, torniamo in musica. Intanto avevo chiesto un cenno di conferma se avevo capito bene, se avevo la tempistica delle obiezioni e risposte. Risponde Andrea, la plus è sempre avanti, quindi è un cenno di conferma al fatto che avevo capito bene. Già questo mi mette di buon umore. Andiamo sempre nella nostra scaletta progressiva, andiamo sempre a ritroso, andiamo al 1972, il Banco del Mutuo Soccorso che ci canta Requiescant in pace, direi che... Amen! Mm. soldato. E lasciamo i nostri banco del mutuo soccorso che stanno cercando il vecchio soldato, e noi soldati civili, diciamo così, soldati della vita. Tu prima hai detto devono verificarsi concretamente, deve verificarsi un'alleanza, e hai citato i tre soggetti, che le tre, diciamo, soggetti e condizioni che si devono alleare in un qualche modo. Ma fino a, io continuo a fare, come dire, il grilletto parlante, non grilletto, l'avvocato pistola, del diavolo, l'avvocato del diavolo, il grillo parlante, la rompiballe, quello che ti pare. E mentre attendiamo che questa alleanza si crei, e non è detto che si crei, perché comunque ci sono anche delle forze ostinate e contrarie, cito De André in questo caso in senso negativo come termine, che non vogliono ovviamente la creazione di questa alleanza, perché poi presuppone tutta una serie di attività, cioè di essere attivo anche della popolazione, delle persone, degli esseri umani. Che si fa nel frattempo concretamente? Ma nel frattempo concretamente dipende tutto dalla responsabilità e dall'iniziativa delle persone. Noi per esempio come Associazione Rivivere ci siamo resi conto, offrendo un servizio di aiuto psicologico a chi si potrebbe distruggere perché ha perso il lavoro, e che è tanto più distruttivo quanto più dura la disoccupazione, ci siamo resi conto da quando qualcuno viene là e ci dice: ma ora io però non sopravvivo, date un sussidio, mi aiutate in qualche modo dal punto di vista pratico. Ecco, allora noi stiamo cercando come associazione di affiancare il servizio Primo Maggio, che è il servizio gratuito di assistenza psicologica, con una serie di iniziative per cercare di procurare risorse per venire incontro alle persone che hanno perso il lavoro nei loro bisogni pratici. Per esempio adesso stiamo preparando un'inchiesta presso i centri per l'impiego, in cui, attraverso la quale andremo a chiedere quali sono i bisogni fondamentali, e cercheremo di vedere, di far incontrare la domanda con l'offerta. Per esempio, una cosa di cui ci siamo già accorti è che se uno per esempio perde il lavoro, mentre è disoccupato perde tutta una serie di diritti, per esempio il diritto alla salute, per esempio non può andare dal dentista, tanto per dirne una. Allora noi ci stiamo organizzando per vedere se possiamo trovare dei dentisti che curino le carie gratis ai disoccupati. Beh, mi sembra, ecco, questo vedremo, esempio, mi sembra una sorta, vedremo se ci sono altri bisogni, ce ne saranno tanti altri di bisogni, che, ecco, per esempio c'è chi tiene i bambini se non ti puoi permettere l'asilo o la babysitter, che cosa succede degli anziani. Ecco, bisogna innescare da questo punto di vista meccanismi di solidarietà sociale, che nel frattempo sono gli unici meccanismi che possono sopperire alle mancanze. Bene, ricordiamo intanto. Ah, aspetta che sono arrivati dei messaggi, oh, scusami, mi ero distratta un attimo, non sto più sul pezzo, come si dice. Eccoci. Ma io non ci credo che una filippica sulla bontà possa essere utile per le dinamiche lavoro uomo. Chiedo scusa, ma il mio buongiorno iniziale non è partito. Ci dice ovviamente la serie di messaggi iniziava con un buongiorno. Ma lo stato sociale dove l'opposizione alla scuola Bologna prima dei tempi dei preti era un fiore all'occhiello. È vero, però insomma, appunto, come già dicevi tu, si possono anche ricostruire dal basso una serie di condizioni positive che tornino in quella direzione. Esatto, anch'io sono contro la bontà predicatoria. La bontà vera però non è predicatoria, è attiva, fattiva. E se ci contagiamo di bontà vera e fattiva, non quella predicatoria, siate tutti buoni e poi ognuno si fa i cavoli suoi, no. Certo non quella bontà lì. Bene. Bene, Francesco, io ricorderei che il 12 giugno questo libro verrà presentato in sala Tassinari alle ore 18. Palazzo da Curzio. Palazzo da Curzio, quindi dici qualcosa per quella giornata, poi lo ricorderemo anche mercoledì prossimo. Sì, in realtà sarà organizzato come un incontro sulla tematica della disoccupazione, di quello che si fa in questa città. Quindi ci sarà la esponente del Centro per l'Impiego che darà i dati, poi io parlerò del servizio Primo Maggio, di quello che facciamo in questa città per aiutare psicologicamente i disoccupati, e ci sarà l'assessore alle politiche sociali del comune, l'assessore Frascaroli, che invece dirà cosa fa il comune di Bologna in questo campo per aiutare le persone che sono disoccupate. Perfetto, andiamo in sigla, sono le 14 precise, salutiamo tutti, ringraziamo tutti Andrea, Emanuele, insomma tutte le persone che ci hanno aiutato Grazie. A animare questa trasmissione. Diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Non hai esami mercoledì no, mercoledì prossimo, prossimo no, ci sarò. Sarai tutto nostro. Ci sarò, ci sarò. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Buona giornata. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.